aspettaste il giorno fissato alle sue nozze per parlarmi di questo? Io non mi perdo, dottor mio, di coraggio. Per rompere sponsali più avanzate di questo, basta spesso un pretesto. Ed egli amico, oltre questo fatturato, certi impegni su io posto. Conviene la Susanna terrir, conviene con arte in punto in giorno a rifiutare il ponte. Egli per vendicarsi prenderà il mio partito e Figaro così fia mio marito. Bene, io tutto farò, senza riserve, tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dar per moglie la mia serva antica a chi mi fece un dì rapir l'amica.